Non credo a ciò che dice la gente, io vedo ciò che fa questa gente. Con scopi inutili ammazzano i loro simili. Ogni giorno questa società è piena di crimini. Il denaro sovrasta ogni sentimento. Il denaro ti fa diventare violento. Il denaro arricchisce solo di fuori, ma dentro sei vuoto e privo di valori. Benvenuti nel mio mondo dove la realtà spaventa. Apri gli occhi perché devi stare allerta. Questa è la verità nuda e cruda, e non esiste affatto una via di fuga. Welcome to reality man, dalle righe del sistema c'è la vera realtà. Negli spazi più lontani dalla mondanità, piena di gente imprigionata nella normalità. Eccoci qua, welcome to reality man, dove non ci sono schemi, solo fatalità. Dove non ci sono divi, solo tanta umiltà. E mezza gente imprigionata nella normalità. Eccoci qua. Preferisco vivere nel mondo reale, senza una fame reale, avendo fame di fare. Ho sempre odiato chi continua a stentare, esagerando per potersi vantare, non dover faticare. Io sono un ombre normale che si fa il culo per riuscire a campare, anche se più un arrancare. E so cosa vuol dire lottare, soprattutto per quel che mi è dovuto e che non mi vogliono dare. Tanto per iniziare i miei diritti, anche se ormai pare siano cose solo buone da calpestare. Ma l'ingiustizia se non ha un limite, dopo un po' non si può più sopportare. Perciò non supporto più nessuno di quel mondo irreale. Supporto solamente brava gente normale che per campare non sa più che fare, perché il pane precario non li può sfamare. Welcome to reality man, dalle righe del sistema c'è la vera realtà. Negli spazi più lontani dalla mondanità, piena di gente imprigionata nella normalità. Eccoci qua, welcome to reality man, dove non ci sono schemi, solo fatalità. Dove non ci sono divi, solo tanta umiltà. E mezza gente imprigionata nella normalità. Eccoci qua, combatto per ciò che aspiro a diventare. Tu non mi potrai di certo ostacolare, perché i problemi io li butto giù, giù. Una volta giù, non ci penso più, più. In questa vita strana tu devi combattere, realizzare i tuoi sogni e trovare le strade. Ora trova quella giusta che fa per te, senza domande non esistono i perché. Oh. Welcome to reality man, dalle righe del sistema c'è la vera realtà. Negli spazi più lontani dalla mondanità, piena di gente imprigionata nella normalità. Eccoci qua, welcome to reality man, dove non ci sono schemi, solo fatalità. Dove non ci sono divi, solo tanta umiltà. E mezza gente imprigionata nella normalità. Eccoci qua.